Degli studi da me letti in riferimento alla Chiesa di Gesù Cristo ne ho scorso uno che ho trovato eccellente e abbastanza esauriente. Devo confessare però di avervi riscontrato una particolare verità che non mi lascia in pace, perché dalla sua esposizione ne deriva un'applicazione capace di turbarmi profondamente. Riporto un passaggio di questo studio. Poiché l'unità di cui parla la Bibbia sia correttamente intesa, è necessario fare qualche ulteriore precisazione. La Bibbia, infatti, non incoraggia né coloro che proseguono l'unità a qualsiasi costo, né coloro che la rilegano nell'eterea spiritualità dell'invisibile, ma pone condizioni precise e irrinunciabili. L'unità della fede esige un accordo circa i punti fondamentali della rivelazione cristiana, da raggiungere con assoluta lealtà di pensiero. Si deve quindi ritenere che le espressioni concrete di unità debbano essere innanzitutto proporzionali all'accordo dottrinale raggiunto. CFC. Fil 3, 15. L'unità della Chiesa non può avere altro fondamento che la verità proclamata dall'Evangelo. Laddove si riconosce l'apostasia o la falsa dottrina, le sacre scritture indicano la strada della separazione. Quelle che spesso sono ritenute divisioni in seno al cristianesimo, in realtà non sono altro che separazioni tra cristianesimo e paganesimo, tra religione biblica e religione naturale. In merito alla selezione dei membri, aggiunge, di essa la Chiesa non poteva far parte chiunque, ma soltanto chi professava la propria fede in Cristo. Essa non era un coacervo di persone coesistenti nello stesso luogo, ma con opinioni e scopi diversi. Era, piuttosto, una comunità vivente con le stesse convinzioni e con i medesimi obiettivi. Studi di teologia e elementi di ecclesiologia meno anne grado 48. Pag. 19219319197. Il giusto e sano obiettivo di questo studio è quello di stimolare l'armonia, la comunione e l'unità dei credenti tra di loro 202 e l'ordine ecclesiale 194, obiettivi più che opportuni. In un momento storico confusionale anche nel campo spirituale, obiettivi questi che abitano generalmente in tutti i credenti in Cristo. Però se c'è una vera separazione tra le chiese definite cristiane, essa riguarda proprio quelle chiese che hanno l'obiettivo di stimolare l'unità, l'armonia, la comunione fraterna e l'ordine. Cosa che confonde ma non sorprende, perché lo stesso autore scrive la testimonianza cristiana è una questione di comunione, aggrega e disgiunge, avvicina e allontana, unisce e separa. La Chiesa è per sua natura una comunità selettiva. Anche questa è una verità sacrosanta. Perciò non si discute il discorso teologico, ma l'applicazione pratica pastorale. Proprio perché questo è il tallone d'Achille del cristianesimo, bisogna avere il coraggio di esaminare la forma con la quale si edifica la Chiesa. 196. In altre parole, scendere nella pratica per essere in grado di comprendere il significato del discorso, perché un ragionamento può anche essere ineccepibile, ma è solo nella pratica che se ne può comprendere il vero significato. Noi non abbiamo bisogno di belle e giuste parole, ma di giusti comportamenti. Nel 1982 ero diventato un conduttore della Chiesa alla quale appartenevo. Assieme ad un missionario, dotato di un grande talento evangelistico, avevamo raccolto un gruppo di persone, che in poco tempo aumentò al punto da costringerci a affittare un locale dove riunirci. Ero ormai convertito da circa 20 anni e il missionario era più che esperto, perciò eravamo tutti e due all'altezza del compito di conduttori. Tutto si svolgeva nel migliore dei modi fino a quando alcuni altri missionari contestarono la nostra conduzione, non per difetto, ma per ragioni di immagine. Così, mi disse uno di loro, io ero un semplice operaio metalmeccanico, il missionario aveva un'opinione sui doni spirituali non condivisa da altri e di conseguenza se ne andò. Dopo varie ingrate situazioni, la conduzione della Chiesa fu affidata a due altri conduttori di un'altra Chiesa. Uno di questi, autore del bellissimo sopracitato scritto sull'ecclesiologia, ha ottenuto la laurea in teologia honoris causa il 4 giugno 2011. Poiché qualcosa non andava, mia moglie decise di cambiare chiesa e io la seguii, mantenendo però dei bellissimi rapporti affettivi con i credenti dell'assemblea, fino a quel momento frequentata soprattutto con tre ragazzi giovanissimi con i quali leggevo da tempo la parola di Dio. Si convertirono a Cristo e l'affetto tra noi si cementò ancora di più. Avvenne un giorno che i due conduttori della chiesa dalla quale mi ero ritirato, in armonia con quanto è stato scritto, vennero in casa mia e, dopo un lungo discorso articolato, mi ordinarono di non leggere più la parola di Dio con questi giovani. Io trasalii e chiesi che cosa mi fosse allora lecito fare con i ragazzi in questione. Mi dissero che potevamo giocare a carte, guardare la televisione ma non leggere la Bibbia. Riposi, seccato, che in casa mia potevo fare quello che volevo, perciò non obbedii ai loro ordini. Non ero più membro di chiesa e obbligato ad ubbidire, perciò i conduttori furono costretti ad ordinare ai giovani di non entrare più a casa mia. Da quel giorno nessuno della chiesa, sempre per mantenere l'armonia e l'ordine della chiesa, venne più a trovarmi. E stato giusto, e stato sbagliato. Dipende da come si vedono le cose. Se far parte di una chiesa significa avere i medesimi obiettivi e le stesse convinzioni al fine di mantenere la comunione. E se l'unità della fede esige il raggiungimento di un accordo circa i punti fondamentali della rivelazione cristiana, allora è legittimo. Obiettivi giusti, più che evangelici, ma è la loro espressione pratica a sconvolgere l'animo. È possibile che giusti obiettivi arrivino a tali comportamenti. È vero che occorre l'ordine e comuni consensi. È vero che la Chiesa è per sua natura una comunità selettiva, ma lo è in questo modo. Paolo disse che una legge è buona, se uno la usa in modo legittimo. 1 Timoteo 1,8. Perciò, una volta stabilita una giusta regola, non necessariamente si è posto davanti a Dio e davanti agli uomini. Una laurea in teologia honoris causa non evita il commettere abusi umani, 196, e non è sufficiente per glorificare Dio, considerato che questo è l'obiettivo pure dell'autore dello scritto. Non dico questo per amarezza, perché la sovranità di Dio, così cara anche all'autore del testo 199, mi ha insegnato che tutto coopera al bene per quelli che amano Dio, anche quando la Chiesa è un circolo chiuso. Dopo più di 40 anni di appartenenza alla Chiesa, in una riunione ho assistito alla scelta e conseguente elezione di un conduttore che non era membro di Chiesa e non aveva mai vissuto una vita di comunità. Dopo 3 anni dall'avvenimento, per mantenere la comunione fraterna, per rispettare certi principi di Dio, come atto d'amore non poteva essere diversamente, questo conduttore mi comunica di avermi sollevato dal compito, da me svolto di insegnamento ai bambini e anche di predicazione per ben 40 anni. Motivazione: perché avevo un indirizzo dottrinale diverso dal suo. Questi sono esempi di vita pratica che dimostrano cosa intendono in genere i conduttori quando parlano di avere i medesimi obiettivi e le stesse convinzioni, divino e diabolico. Divino perché si dichiara una verità, diabolico quando ci si serve di questa verità per raggiungere scopi molto discutibili. Ogni autorità è stata stabilita da Dio, è vero, ma non ogni autorità in carica sta svolgendo il compito di Dio. Dobbiamo prendere sul serio questa verità. Anzi, ogni persona incaricata di governare deve esaminare attentamente come svolge il suo ruolo. Mi rendo conto però che sono esortazioni prive di utilità, perché tutti sono convinti di compiere ogni cosa per il bene e per la gloria di Dio. La carità cristiana obbliga ad avere questo presupposto, perché sarebbe veramente vergognoso pensare in anticipo che chi si comporta così lo faccia per motivi disonesti. Dopo mezzo secolo di vita cristiana, ho compreso che non serve a nulla avvertire e supplicare chi è in autorità di non cadere nell'autoritarismo, perché ciò che fa lo fa con coscienza, convinto che il suo agire sia per il bene di tutti i fratelli. Quando Gesù disse che sarebbe arrivato il momento nel quale chiunque ucciderà un credente penserà di rendere un servizio a Dio, Giovanni 16, 2, non fece presente una mala intenzione, ma spiegava che tale gesto sarebbe stato compiuto in serenità di coscienza. Il potere, qualsiasi sia, conduttore di chiesa, marito, genitore, autorità civile in genere, acceca la mente e la coscienza, se non per malignità, perché offuscato dal dovere di guidare. L'obiettivo di condurre è talmente forte da impedire di essere in grado di vedere le cose dal punto di vista da chi è sottomesso. Per questo, quando ero conduttore ho predicato dei doveri del conduttore, mentre quando ero un semplice credente ho predicato della sottomissione come principio divino. Purtroppo, come è stato ben detto, in genere, quando la Chiesa è in minoranza, parla di libertà, quando è in maggioranza, parla di autorità. Discussi di avere i medesimi obiettivi e le stesse convinzioni dovrebbero provenire da chi non è in autorità. Chi invece ha l'autorità di condurre non dovrebbe, come ha fatto di frequente quel fratello che non era membro di chiesa, argomentare sempre di umiltà, di obbedienza e di servizio. La religione cattolica non parla, forse, spesso di povertà quando essa è lo stato più ricco del mondo. Siamo capaci di vedere questi aspetti? Proprio perché sono disarmato di fronte a chi è in autorità, il mio pensiero si rivolge a te che devi convivere con chi possiede un certo potere, potere di decidere e potere di comandare come ci si deve comportare, per avere i medesimi obiettivi e le stesse convinzioni, e per concordare verità comuni e impegni comuni. Se non sei d'accordo su certi aspetti pratici, come comportarti? Se obbedisci, vai contro la tua coscienza. Se disubbidisci, mantieni la cosiddetta armonia della chiesa locale. Mauli, qualsiasi decisione tu prenda ti senti in colpa, bisogna preferire l'armonia della chiesa o la serenità di coscienza. La risposta non è facile, ma può essere gradevolmente accettata. Se tu parti del presupposto che la bilancia della vita ha due piatti, cioè sempre in tutte le cose ci sono due aspetti. Spesso gli aspetti di una situazione sono veri entrambi. Nella vita, perciò, non si tratta di scegliere tra giusto e sbagliato, ma il meglio. Così è giusta l'armonia della Chiesa, ma è giusta anche la serenità della coscienza. Cosa decidere? La decisione è molto personale. Se per te è più importante l'armonia della Chiesa, fai questa scelta. Se invece è più importante la serenità della tua coscienza, seguila. Per vario tempo questo conflitto ti accompagnerà nella vita. Poi, quando avrai accertato quale scelta sia meglio per te, tutto si normalizzerà. Vi è però un altro particolare al quale devi fare attenzione. Condurre non vuol dire imporre. Quando fra i discepoli nacque il problema atavico di chi fosse il più grande, Gesù non li rimproverò, ma insegnò che era chi serviva e non chi comandava con autoritarismo. Chi è in autorità ed esercita tale compito secondo lo spirito evangelico non impone. Quindi tu devi fare molta attenzione a chi ti è preposto in autorità. L'autorità che procede da Dio insegna, inculca, Deuteronomio 6:7, ma non impone. Così, se per l'armonia della Chiesa ti è imposto un comportamento che tu non condividi, hai tutto il diritto di rifiutare. Attenzione però! Questo non significa avere un atteggiamento individualistico, ribelle e disfattista, ma con rispetto ed amore spiegherai le ragioni della tua scelta. Se il cristianesimo è la risposta d'amore costretta dall'amore di Dio, 2 Corinzi 5:14, nello stesso modo i conduttori dovrebbero fare appello all'amore dei credenti per ottenerne il consenso, Filemone 9. I membri di Chiesa non devono ubbidire sotto la minaccia o prospettiva di una mancata armonia di Chiesa, ma perché hanno compreso, tramite un giusto insegnamento, che acconsentire è giusto anche per loro. E se il credente comprende diversamente, il conduttore avrà una certa tolleranza, 193, e accetterà la diversità, perché essere membri di Chiesa non vuol dire uniformità, ma complementarietà. Come ha ben detto l'autore dello scritto, la verità non ha contorni approssimativi, 219, ma io tremo di fronte a questa affermazione, perché in genere la verità non è altro se non ciò che io ritengo giusto. Vi sono anche opinioni personali nel modo di condursi, Romani 14:1, che dobbiamo accettare come tali e valide per altri, anche se non per noi. Dio ci dia la saggezza di distinguere le verità, definitive e indistruttibili che edificano, dalle opinioni, ma soprattutto di fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi, Matteo 7,12, perché saremo giudicati secondo il giudizio con il quale giudichiamo e con la misura con la quale giudichiamo sarà pure misurato a noi, Matteo 7,2. Secondo Dio, i conduttori ne riceveranno un più severo giudizio, Giacomo 3,1. Novembre 2,0, 1, 2, 1, 1, 7. Ellero.